GR24, il sole 24 ore. Crisi politica a Alfano, al Quirinale, dopo l'astensione del PDL sul decreto sviluppo, lo spread vola sopra i 330 punti. Scampia, il ministro Cancellieri rilancia l'ipotesi dei militari. Saviano a Radio 24 dice non sia cosa episodica e su Berlusconi aumenta il rischio del voto di scambio. Fukushima, violenta scossa di terremoto, torna la paura tsunami, ma l'allerta rientra. Anche Facebook nel mirino del fisco, accertamenti alla sede milanese del social network. GR24, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura torniamo a parlare di politica perché sembrano ore cruciali per il governo Monti dopo che ieri il PDL si è astenuto sul decreto sviluppo. Alfano è salito al Quirinale, facciamo il punto di questa giornata con il nostro Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, giornata decisamente importante, come dicevi da studio, per i destini del governo tecnico. Questa mattina l'incontro tra Alfano e il Presidente della Repubblica dopo lo strappo di ieri del Popolo della Libertà alla Camera e al Senato. Nel pomeriggio saliranno al Quirinale anche Bersani e Casini. Alfano avrebbe ribadito comunque al Capo dello Stato che non vuole affossare Monti, che il sostegno al governo andrà avanti ancora, ma è necessario cambiare presto la politica economica di Palazzo Chigi, ormai lontana dalle corde dell'elettorato di centrodestra. Motivazioni queste ufficiali della spallata del PDL a Monti, in realtà a nessuno sfugge il ritorno in campo di Berlusconi e la sua necessità di alzare i toni. La richiesta del Quirinale però non cambia, è necessario che nelle ultime settimane della legislatura non venga rovinato quanto di buono fatto in un anno a livello dello spread e tenuta dei conti pubblici tra tutti. Tra breve ne sapremo comunque di più sulle intenzioni del Popolo della Libertà con l'intervento di Alfano qui alla Camera in sede di dichiarazioni di voto sui costi della politica. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, questa dunque la situazione per quanto riguarda gli incontri del Presidente della Repubblica Napolitano con i partiti dopo quello che è avvenuto ieri in Parlamento. Notizie che hanno avuto riflessi sui mercati finanziari con lo spread. E allora andiamo a vedere qual è la situazione in questo momento. Ritroviamo Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Alessio. Allora, siamo arrivati stamattina a 336 punti base nel differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale, con il rendimento del BTP che ha risuperato il 4,6%, per cui la tensione politica si riflette inevitabilmente sul mercato, anche se per la verità in molti non sono d'accordo rispetto a questa teoria. Di fatto noi la vediamo, lo spread si alza, la borsa scende di nuovo in un copione che rileggiamo oggi identico a quello di ieri. Milano sta perdendo un punto percentuale sul FTSE MIB ed è di gran lunga la peggior piazza d'Europa. Anche gli altri listini sono negativi, ma in realtà mostrano segni di tenuta più significativi. Meno 0,18% a Londra, meno 0,15% a Francoforte, meno 0,19% a Parigi. Oggi è in difficoltà anche l'euro sul dollaro perché ritraccia rispetto al trend degli ultimi giorni a 1,29,29. Sono soprattutto le banche che risentono chiaramente della aumento dello spread ad essere i titoli fra i più penalizzati, ma anche molti titoli del settore industriale. A2A meno 3, Saipem dopo il crollo di ieri anche oggi perde l'1,64%, scendono tutti i titoli della galassia Fiat, scende Finmeccanica dell'1,75%. Nel pomeriggio sposteremo la nostra attenzione negli Stati Uniti, dove arriva il dato sulla disoccupazione di novembre, atteso invariato al 7,9%, ma siamo soprattutto curiosi, lo è il mercato, di sapere quanti nuovi posti di lavoro ha creato nel mese di novembre l'economia americana. Direi che per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Adesso le altre notizie, continuiamo a parlare di politica perché il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri è stata questa mattina alla scuola materna del Rione Scampia a Napoli, dove due giorni fa, ricorderete, è stato ucciso Luigi Lucenti, 50 anni, dai sicari della Camorra. Stiamo pensando, ha detto, ad intensificare la presenza dei militari. Sentiamo le parole del ministro. La quantità di uomini che c'è sul territorio è straordinaria, guardi. Stiamo pensando di intensificare di più la presenza di militari ancora. E adesso dobbiamo quantificare il numero, ma c'è già uno sforzo veramente straordinario su Scampia, ma che ormai va avanti da mesi. E per martedì i presidi della zona hanno annunciato la protesta delle luci. Le scuole del quartiere resteranno infatti illuminate per tutta la la notte. La presenza dei militari non sia una cosa episodica, altrimenti sarebbe inutile così. Intanto questa mattina a Radio 24 Roberto Saviano ha commentato questa ipotesi. Per l'autore di Gomorra, tra l'altro, l'annunciata ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi potrebbe aumentare il rischio, ha detto, del voto di scambio. Sentiamo. C'è il rischio assoluto che la macchina del voto di scambio torni, cioè che il voto con la crisi economica valga la metà. Perché se un voto lo compri a 50-80 euro facendo una spesa alla famiglia, perché i meccanismi sono questi, il rischio terribile è che oggi costi tutto meno e quindi con un investimento minimo tu hai il voto di scambio, e nel decreto anticorruzione non ci sono strumenti per fermare questo tipo di voto di scambio. Quindi l'emergenza secondo me è gigantesca, perché ci troviamo la democrazia condizionata un'altra volta. In questo momento, sempre dal punto di vista dei miei temi, dei temi che studio, affronto e che sento nella carne, forse ne sono persino ossessionato, è che non mi aspettavo una tale irresponsabilità in un momento così delicato da parte del PDL, e parlo, attenzione, delicato non nel senso della crisi economica, è delicato proprio per i temi che stiamo affrontando questa mattina, cioè la guerra a Napoli, la chiusura del processo infinito a Milano, una rivoluzione purtroppo passata inosservata, ma una vera e propria rivoluzione della storia italiana. E la crisi politica che di fatto si è aperta ieri dopo l'astensione in Parlamento del PDL sul decreto sviluppo rischia di incidere anche sull'iter di un altro provvedimento ritenuto importante, quello delle cosiddette liste pulite, messo appunto dal governo. L'incandidabilità, cioè dei condannati con pene superiori ai 2 anni, è stato annacquato. Ora il PDL non vorrà farlo approvare, dice la presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, al microfono di Raffaella Calandra. Devo esprimere in realtà un po' di delusione per il testo di questo provvedimento, non mi pare affatto che abbia quella forza che mi sarei aspettata. C'è addirittura da dire che in alcuni tratti mi sembra che queste disposizioni vadano persino indietro rispetto alla delega, anche per quanto concerne il profilo del patteggiamento non riesco a comprendere perché dare una sorta di super premio. Potevano essere più coraggiosi? Assolutamente sì, che sicuramente è annacquato rispetto a quello che era previsto. Sembra quasi che ci sia voluto fare un provvedimento che non vada a toccare le situazioni già complicate e discusse che attualmente coinvolgono personaggi politici di vario tipo. Restano fuori la truffa semplice, la protezione indebita, la frode informatica, traffico di influenze, corruzioni tra privati, cioè una serie di reati comunque gravi. Quindi elevare la soglia, primo punto di criticità. Secondo punto di criticità, aver stabilito che le norme sull'incandidabilità non riguardino i vecchi patteggiamenti già stipulati e ratificati. Il terzo punto riguarda il fatto che non si sia previsto un termine, ad esempio, da dare alla Camera. Teme che questo provvedimento possa adesso finire su un binario morto? Quando si tratta di provvedimenti in materia di giustizia che in qualche modo possano toccare una serie di persone, è chiaro che i timori sono concreti. In più ci sono i tempi che non sappiamo più quali saranno a nostra disposizione. Quando arriverà la mia commissione cercherò di sollecitare un parere rapido, però mi sembra che ci sia un gruppo che in questo momento non abbia nessuna voglia di dare il via a questo provvedimento. Così la Presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, sulla incandidabilità dei condannati nelle liste. E a proposito di liste, c'è chi le ha messe a punto più che con le primarie, con le cosiddette parlamentari. Parliamo del Movimento 5 Stelle. Secondo gli ultimi sondaggi, il movimento di Beppe Grillo è il secondo partito in Italia, con una quota che sfiora il 20%. Alle parlamentari e a 4 giorni di votazioni per scegliere i candidati da portare alla Camera e al Senato, hanno votato in 95.000. Potevano esprimersi solo coloro che sono regolarmente iscritti al movimento e solo online. Due requisiti che hanno certamente influito sul numero di coloro che ha partecipato al voto. Ma per Grillo queste votazioni sono state un successo straordinario, nonostante i sabotaggi veri o presunti. Siamo pieni di hacker che ci escono dalle orecchie, è una guerra all'ultimo sangue, è la democrazia, per mandare un po' di gente in Parlamento normale. Tutto a costo zero, rivendica Grillo, che sottolinea come curricula alla mano si tratta di candidati di cui si può sapere molto 3 mesi prima delle elezioni, persone normali come casalinghe, cassintegrati, pensionati, studentesse. Ciao a tutti, io sono Giulia Sarti, ho 26 anni e tra qualche giorno sarò laureata in giurisprudenza. Lei per esempio è Giulia Sarti. Sarti, la più votata in Emilia-Romagna. Mi sono attivata per la prima volta nel 2010 nel meetup di Reggio Calabria. Lei invece è Dalila Nesci, incoronata in Calabria. Sono loro, in maggioranza donne, che entreranno in Parlamento per cambiare le cose. Io ne resterò fuori, conclude Grillo, che però prima di chiudere fa sapere che il movimento rifiuterà i 100 milioni che potrebbero arrivare dai rimborsi elettorali. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora le riflessioni di Stefano Folli sul momento politico. Il punto di Stefano Folli. Da oggi e nelle prossime settimane l'attenzione torna a rivolgersi al Quirinale. Giorgio Napolitano, e solo lui, ha il difficile compito di gestire uno dei passaggi più delicati per la politica e le istituzioni. Occorre evitare che lo strappo con cui il PDL, di nuovo berlusconiano, ha posto fine di fatto all'esperienza del governo Monti abbia ripercussioni gravi e negative. In che senso? Intanto sulla credibilità internazionale dell'Italia, faticosamente riconquistata nell'ultimo anno. Poi sui mercati, dove il nostro paese resta esposto e fragile. E naturalmente sul piano interno, che si vada alle elezioni è assodato, che ci si vada con ordine e senza ulteriori lacerazioni tocca alla responsabilità delle forze politiche e appunto alla regia del Presidente della Repubblica. Il fragoroso ritorno di Berlusconi è il tipico sasso nello stagno, tutto legittimo, ma è necessario che qualcuno tenga i nervi saldi. La legge di stabilità prima di Natale è un obiettivo irrinunciabile, prima di procedere con la campagna elettorale. Guai a compromettere tutto all'ultimo istante per leggerezza ed egoismo partitico, quello che per poco non è accaduto con il decreto sviluppo. E adesso parliamo della fotografia che ha fatto il Censis, come di consueto, all'Italia. Una fotografia che risulta caratterizzata dalle cosiddette 3R: risparmio, rinuncia, rinvio. Nuove ambizioni nelle scelte di studio e lavoro, con gli istituti tecnici in cima alle speranze delle famiglie. Riorganizzazione all'estero del sistema di impresa, spinta verso l'industria digitale. Così l'Italia, che sopravvive, fotografata dal rapporto Censis, prova a ripartire in quello che viene definito come l'anno del riposizionamento. I rischi ci sono: smottamento del ceto medio che perde ricchezza, reazioni di rabbia e una protesta che non ha rappresentanza. Gli italiani sembrano avere pochi dubbi. Il crollo morale della politica e la corruzione sono ritenute le cause principali della crisi da oltre 4 italiani su 10. Seguono sprechi e clientele ed evasione fiscale, contro cui punta il dito oltre un italiano su 4, ben oltre le responsabilità attribuite all'Europa o alle banche. Sono le cause interne, insomma, a provocare sdegno. E la reazione è rabbia per ben il 52,3% degli italiani. Uno tsunami che fatica ad essere incanalato. Nell'ultimo anno i partecipanti ad iniziative di protesta tra i giovani sono stati il 13%. Una forte disponibilità all'indignazione e alla mobilitazione contro, si legge nel rapporto del Censis, che attraversa gran parte delle società europee, ma che assume in Italia caratteri più radicali e una diffusione più consistente. Insomma, siamo un'Italia arrabbiata che sopravvive. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la cronaca dalla Sicilia all'Indonesia. Pensate, i carabinieri di Palermo hanno arrestato a Bali un boss emergente della mafia, Antonino Vitale. Invece in Sicilia nuove indagini sulle energie alternative hanno fatto scoprire investimenti del super latitante Matteo Messina Denaro. Il vento fa il suo giro e col movimento delle pale eoliche porta sempre più vicino all'ultimo super latitante di Cosa Nostra. Matteo è un grande amico mio, si vanta al telefono Salvatore Angelo, re delle energie alternative, arrestato insieme ad altre 5 persone, tutte considerate vicine alla primula rossa della mafia, Messina Denaro, che a gennaio raggiunge i 20 anni di fuga dallo Stato. E proprio a lui, al boss di Castelvetrano, gli imprenditori giravano parte dei guadagni ottenuti con una sfilza di parchi eolici in Sicilia, tra Agrigentino e Trapanese, da tempo frontiera prediletta delle organizzazioni mafiose. Con l'appoggio di un consigliere provinciale di Trapani, Santo Sacco, PDL, e di uno di Terrasini, gli affari dei boss si sarebbero allargati anche al fotovoltaico, con investimenti nel parco di Ciminna e nelle biomasse. E quando altre aziende, come è successo a Catania, cercavano di intromettersi, venivano minacciate. Insieme agli arresti sono arrivati pure i sigilli alle società degli imprenditori Angelo e Nastasi, considerato il postino di Matteo Messina Denaro, un nuovo sequestro dopo quelli degli anni scorsi ad altri signori dell'eolico. Seguendo il vento, forse si arriverà anche all'ultimo boss. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo della prima della Scala, mancano poche ore al debutto. Alle 17 si alzerà infatti il sipario sull'opera di Wagner e il presidente del Consiglio Mario Monti nella tarda mattinata ha lasciato Roma diretto a Milano e quindi assisterà a questa rappresentazione che è l'evento mondano dell'anno, previste anche proteste come spesso accade di fronte al teatro e alla prima della Scala sarà dedicato anche il nostro GR Spettacoli. Notizie dall'estero, prima di andare in Giappone per l'allerta tsunami che poi è rientrato dopo il terremoto, parliamo invece di quello che sta accadendo anche in Egitto, dove oggi si prepara una nuova ondata di manifestazioni popolari. Potrebbe essere la calma che precede la tempesta. Tutto tranquillo oggi nelle strade del Cairo, ma l'opposizione egiziana prevede di scendere nuovamente in piazza per manifestare contro il presidente Mohamed Morsi e chiedere il ritiro del decreto che accorda poteri eccezionali al capo dello Stato. All'indomani dell'atteso discorso di Morsi alla nazione, la coalizione dell'opposizione, presieduta dall'ex capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Mohamed El-Baradei, ha fatto sapere che il fatto che la presidente continua a ignorare le richieste e le proteste del popolo, chiude di fatto le porte a ogni tentativo di dialogo. Il fronte, si legge in un comunicato del gruppo, rinnova il suo appello agli egiziani a riunirsi nelle piazze d'Egitto, un appello che è stato lanciato anche dai giovani del movimento del 6 aprile, lo stesso che ha contribuito in maniera determinante a lanciare la primavera araba d'Egitto. Intanto il presidente americano Barack Obama ha telefonato a Morsi per esprimere preoccupazione per i disordini degli ultimi giorni che hanno provocato anche delle vittime. Obama ha ribadito che Washington continua ad appoggiare la transizione del popolo egiziano verso una democrazia che rispetti però i diritti di tutti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Giappone, come dicevamo, per il terremoto che ha colpito la zona della centrale di Fukushima. In Italia erano le 9.18 quando la forte scossa di magnitudo 7.3 è stata registrata nel nord-est del Giappone, nelle acque del Pacifico, a 492 chilometri da Tokyo, dove il terremoto è stato avvertito con forza e gli edifici hanno tremato a lungo. Le autorità hanno lanciato subito l'allerta tsunami con onde che nella prefettura di Miyagi hanno già raggiunto un metro di altezza, in quella che è una zona fortemente provata dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo del 2011. I treni veloci sono stati fermati per precauzione, così come è stato chiuso per controlli l'aeroporto internazionale, evacuata, sempre per controlli, la centrale di Fukushima, dove si verificò il più grave incidente nucleare della storia. Il primo ministro Noda ha interrotto la campagna elettorale. In Giappone si vota il 16 dicembre per rientrare a Tokyo e seguire la situazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una notizia che riguarda lo Stato Vaticano. Benedetto XVI ha nominato Monsignor Georg Genswein suo segretario particolare, nuovo prefetto della Casa Pontificia, elevandolo al contempo alla dignità di arcivescovo. L'indiscrezione era già circolata nei giorni scorsi e oggi è arrivata la conferma. Adesso invece ci spostiamo a Milano, dove nel mirino del fisco è finita la sede nel capoluogo lombardo del social network più famoso al mondo. Dopo Google, la Guardia di Finanza ha avviato verifiche su Facebook Italia. Secondo quanto risulta al sole24ore.com, il nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle di Milano ha condotto una serie di accertamenti amministrativi, ossia di carattere fiscale, presso gli uffici milanesi dell'azienda fondata da Zuckerberg. Si tratta del riscontro di un corretto adempimento degli obblighi tributari in Italia, esattamente come è avvenuto qualche giorno fa con Google Italy SRL. Proprio come per Google, anche Facebook Italy è una società a responsabilità limitata costituita il 21 luglio del 2009. Secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio, Facebook Italy ha chiuso il 2011 con ricavi per poco più di 2 milioni di euro e un utile di appena 53.473 euro. La SRL appartiene a un unico socio, il gruppo Facebook Global Holding. Quest'ultimo è una LLC, cioè una società speciale, che ha sede nel Delaware, lo stato americano con la giurisdizione probabilmente più economica e flessibile al mondo per le società. La posizione di Facebook ufficiale è la seguente. Facebook paga le tasse in Italia come parte della sua attività nel paese e rispetta molto seriamente i propri obblighi ai sensi della legislazione italiana in materia fiscale. Facebook ha cooperato, continua la nota, pienamente con la Guardia di Finanza nel corso delle indagini e intende continuare a farlo. Enrico Marro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR 24. Alessio Maurizi in studio e Gianmarco Ferronato in regia vi augurano buona giornata. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. Prima della Scala mancano poche ore al debutto. Il sipario su Lohengrin si alzerà alle 17. Molta attesa e tante incognite, per ora due notizie. Il presidente del Consiglio Mario Monti ha lasciato Roma diretto a Milano, quindi assisterà alla rappresentazione, e Ani Arteros nella tarda mattinata ha dato forfè per un'infiammazione alle corde vocali e sarà sostituita nella parte di Elsa da Annette Dash. Ma non c'è prima senza proteste. La Confederazione Unitaria di Base CUB ha programmato per questo pomeriggio dalle 15 in poi un presidio di fronte al teatro proprio per protestare contro il governo Monti. Sulla rappresentazione, dicevamo, attesa e incognite. Il commento di Armando Torno. La prima del Lohengrin alla Scala è carica di significati e di attese. Significati perché in fondo è la stagione che in qualche modo tutto il mondo musicale guarda, e attese perché ci sono state molte polemiche. Come mai si apre con Wagner e non con Verdi nell'anniversario dei due grandi? E come mai questa scelta della Scala mentre il sovrintendente dà le dimissioni e guarda già Parigi? Fra tre anni non dimentichiamo che Lisner appunto sarà a Parigi. Insomma, una prima con molti punti interrogativi, ma anche con alcune certezze. Barenboim è un buon direttore wagneriano, se non verrà colto da crisi particolari o da altro, che possono essere sempre nelle corde di un direttore, dovrebbe darci un'esecuzione ottima, così come ottimo il sestetto di cantanti. Del resto abbiamo tutta una serie di prime figure. Ma quello che farà specie sarà un Lohengrin che effettivamente avrà tolto un po' del mito e guarderà la realtà con un po' più di psicoanalisi. Forse è giunto il tempo di trasformare i miti in psicoanalisi. E allora, guardando questo e pensando ad altro, io direi che le oltre 5 ore del Lohengrin di questa sera vanno un po' attese per capire come andrà anche la situazione. In fondo nella Sala della Scala si rispecchia l'Italia, insomma Lohengrin è anche pieno di sorprese. Come sentivamo anche da Armando Torno, il sovrintendente Stéphane Lisner è ormai in uscita, ma dice basta polemiche, anche sulla scelta di Wagner e non di Verdi. Mi mancherà sempre questo teatro, perché questo teatro è unico. Bisogna superare tutte queste polemiche, perché forse sarebbe meglio fermarsi sulle cose un po' più profonde e interessanti. Sono dei problemi più gravi che un problema di derby tra Wagner e Verdi. La cosa più bella è che abbiamo un teatro stupendo, abbiamo una massa artistica fantastica, un'orchestra eccezionale, un coro unico, abbiamo una potenzialità unica al mondo. Bisognerebbe che tutti siano, essere un po' più solidari di questo teatro, piuttosto ogni tanto di fare passare alcuni interessi particolari prima l'interesse dell'istituzione. Che cosa che conta per noi? Conta l'istituzione. Noi siamo fortunati di avere questo teatro a Milano, dobbiamo sostenerlo. E saranno altri 22 diversi luoghi di Milano e non solo a dare il via a Lohengrin. Un maxi schermo è stato allestito nell'ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II, ma sono stati scelti anche luoghi come la Casa della Carità, la Piscina Cozzi, teatri, cinema e anche carceri. Ai penitenziari di San Vittore e di Bollate quest'anno si aggiunge anche il carcere di Opera. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola. Ancora l'augurio di una buona giornata.